E allora l'avevamo annunciato qualche minuto fa, approfondiamo questa questione capitata a Catanzaro, quindi ci trasferiamo in Calabria. Il 30 di ottobre in uno spazio sociale, il laboratorio La Riscossa, si teneva un'iniziativa serale, la presentazione di una rivista, non è di movimento, insomma i partecipanti erano lì tranquilli a dibattere di questa rivista quando un gruppetto di fascisti si è presentato lì davanti con tono minaccioso, brandendo mattoni, lanciandoli, insomma, inscenando una gazzarra, insomma, a cui è chiaro i compagni lì presenti hanno cercato di dare un freno, intimando a costoro di andare via. Poi insomma è successo il fattaccio, sta banda è ritornata molto più aggressiva, alla fine insomma è partita una coltellata ai danni di un compagno che è stato ricoverato in ospedale, le sue condizioni fortunatamente sono migliorate, ma insomma la vicenda segnala di un intorbidimento chiaramente presente un po' in tutte le città, dovuto a una certa escalation messa in pratica da questi gruppi di estrema destra. Evidentemente anche a Catanzaro, insomma, si sta verificando tale fenomeno, che adesso cerchiamo di capire se è il caso, insomma, di magari così ridimensionare un po' alla serata in questione. Crediamo infatti invece che non sia proprio così, o invece, come appunto pensiamo, bisogna stare un po' più con gli occhi aperti, vigilare in un certo senso, anche prevenire, insomma, questo tipo di situazioni. In che modo? Chiaramente l'unico antidoto è quello di cercare di portare avanti percorsi di lotta che siano comunicativi, comprensibili ai più, insomma, no? Questo è forse l'unico antidoto possibile. Noi approfondiamo questa questione con una compagna, Alessia, che è qui con noi e che salutiamo, e a cui insomma chiediamo innanzitutto di ricostruire un po' questa vicenda. Allora, vi racconto un po' com'è andata. Come già hai anticipato tu, i compagni stavano presentando una rivista nel posto che è al centro di Catanzaro, e appunto sono arrivati i soliti noti, diciamo, questi ragazzi della scena fascista catanzarese, e dopo aver lanciato appunto delle pietre, aver sfondato dei vetri del posto, dopo appunto i compagni sono scesi a difendere il posto, dopo un battibecco se ne sono andati. La seconda volta che sono scesi invece sono andati comunque dritti ad accoltellare questo compagno, Ruben, che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi, nel senso che le coltellate sono state scagliate alla schiena è stato ricoverato più o meno per un mese in ospedale, ma diciamo che adesso adesso è a casa e sta bene. Dopo l'aggressione, la polizia ha pensato bene di fare una perquisizione nel loro posto, nonostante appunto loro, i compagni, erano stati gli aggrediti, non gli aggressori. La perquisizione ha visto un sequestro di una piccola falce che tenevano là come simbolo comunque di delle lotte passate, ed era una falce piccolina, eppure sono stati anche denunciati per detenzione di arma bianca, come attaccarsi al niente. Poi sono stati tenuti in questura e tre di loro sono stati denunciati per concorso in tentato omicidio, nonostante appunto, ripeto, loro erano stati gli aggrediti. Invece nei confronti degli aggressori non c'è stata nessuna C'è un'indagine in corso, ma non c'è nessuna, non sono stati interrogati, niente, nonostante comunque Catanzaro è una piccola città e si sa chi sono e chi non sono, ma beh, queste sono storie ordinarie ormai in Italia. Senti, volevo chiederti, a parte che mi verrebbe da chiederti, insomma, su cosa potrebbe poggiare l'accusa di tentato omicidio a danno dei compagni, ma fino a un certo punto, perché poi nel momento stesso in cui me lo chiedo, mi viene anche da pensare che andare a investigare all'interno di queste, di questi teoremi, delle impalcature giudiziarie, delle montature, insomma, che vengono messe in piedi a carico dei compagni, è come, insomma, andare a cercare insomma, una situazione assai comune di cui è inutile spiegarci il perché, insomma. E quindi forse è meglio che ci spieghi, così da capire anche bene i contorni di questa vicenda, ad esempio in che attività sono impegnati i compagni del laboratorio La Riscossa, perché poi di solito i fascisti si muovono per cercare di dare una lezione nei confronti di chi, insomma, magari è impegnato nel fare delle cose, no? Infatti, cioè, noi ci siamo chiesti perché proprio in questo periodo, cioè, perché adesso si sono usate le lame, cioè una coltellata. Non è la prima volta che succede, non è mai successa una cosa del genere. Sicuramente botte, repressioni di questo tipo, date e ricevute durante attacchi naggi, come sapete tutti quanti, come avvengono queste cose. La risposta che mi sono data è che comunque in questi ultimi anni i compagni sono diventati molto forti all'interno della città. Hanno seguito la questione Fonemedia con i laboratori del call center, quindi hanno avuto molto riscontro in questo. Gli stessi lavoratori continuano a fare, nonostante comunque la vicenda non è andata a buon fine, sono stati licenziati, però continuano a vedersi nel loro posto. Poi hanno seguito anche le proteste per il dissesto idrogeologico in una zona di Catanzaro, nel quartiere Janò, e quindi anche quei cittadini di quel quartiere, abitanti di quel quartiere, cercavano nei compagni di riscossa un aiuto nell'affrontare la questione. Inoltre, proprio nel mese di ottobre, quando poi è avvenuta l'aggressione, gli studenti delle scuole superiori hanno fatto una manifestazione molto partecipata, che è stata organizzata dal collettivo dei ragazzi che stanno all'interno delle superiori, che comunque si vedono all'interno del Riscossa, fanno cene sociali ogni sabato. Quindi, vedendo questa partecipazione del posto, proprio vivere il posto, grandi e piccoli, io penso che appunto abbiano deciso di fermare questo tipo di dinamiche. E quindi la coltellata proviene sicuramente da questo. Da questo successo, tra virgolette, che si può attribuire ai compagni, perché hanno fatto un buonissimo lavoro a Catanzaro. Essere sotto attacco e la capacità di inserimento, insomma, in alcuni discorsi vertenziali che si muovono in città, il lavoro, la salute, l'ambiente, la città stessa, il modo in cui funziona e organizzata. È evidente, insomma, quindi che anche l'atteggiamento poliziesco è facilmente spiegabile mettendo in fila quella che è, insomma, l'attività giornaliera e quotidiana di chi è impegnato, insomma, in una serie di, no, discorsi sociali. Esatto. Sì, diciamo che c'è un tipo di repressione parallela. Laddove non arriva la polizia, arrivano i fasci. Sì, perché cioè, non è un discorso di vittimismo, nel senso che quando si decide di fare un determinato tipo di vita, si è compagni, comunque si mettono in conto anche queste cose, soprattutto in determinati territori dove si sanno che loro sono radicati, dove se fai politica devi mettere in conto anche che devi scontrarti con loro. però è un tipo di depressione perché scoraggiano soprattutto moralmente, nel momento in cui uscendo di casa hai il timore di doverti guardare le spalle in continuazione. E, sì, non, il, questo, cioè, il, ringrazio della visibilità che mi dà. Che ci dà la radio, e questa visibilità vuole essere non solo una denuncia, ma anche un invito a parlare di queste cose, a parlarne il più possibile, perché io credo che ci si sente meno soli in queste situazioni, sempre che non, tenendo conto che non è un discorso vittimista, quando appunto i compagni stanno insieme. Contro questo tipo di cose, appunto, in diversi territori è buono che ci sia una solidarietà massiccia e si facciano delle cose, delle manifestazioni, delle iniziative per evitare cose ancora più gravi che ci sono state negli scorsi anni. Questa è la paura. Senti, tu quindi stai parlando di solidarietà attiva, quindi vorrei capire anche se magari il modo in cui avete cercato nel corso degli ultimi tempi di avvicinarvi e capire quello che si muoveva attorno a voi, inserendovi quindi in una serie di vertenze, se poi adesso, che è il momento, insomma, in cui avete subito questo forte attacco, in un certo senso un po' avete avuto il ritorno di questo investimento, di questa sedimentazione svolta fino adesso, e quindi i lavoratori, ad esempio, con cui siete entrati in contatto, hanno avuto modo di attestarvi la loro solidarietà? Assolutamente. La prima solidarietà è quella che proviene proprio dal lavoro. Dal lavoro dei compagni che hanno fatto con E queste sono cose che il morale lo tirano su, no? è un ritorno che è appunto positivo. Infatti ci sono state un via vai di gente appunto di questi sia di quelli del call center che degli abitanti di Iano, che appunto dimostravano sia preoccupazione che solidarietà per quello che era successo, perché poi naturalmente non c'è solo una solidarietà di tipo appunto politico, se si può dire in questo modo, ma anche affettivo, perché c'è un rapporto con il ragazzo, con il compagno che è stato accoltellato, con la gente, proprio il contatto umano. C'è stata una risposta positiva da parte della città, nonostante io ero molto dubbiosa su questo, nel senso, vabbè, sì, da parte dei lavoratori, degli abitanti, no, cioè, ero convinta del fatto che ci sarebbe stata solidarietà. Inoltre, invece, è arrivata la solidarietà anche da varie associazioni, parti politiche, partiti, che hanno dimostrato la propria solidarietà e hanno, insieme ai ragazzi del Riscossa, fatto in questi giorni un comitato cittadino antifascista per prepararsi ad una risposta contro quello che è successo, promuovendo. Domani ci sarà una conferenza stampa su questo, dove appunto probabilmente si lancerà una manifestazione per sabato 20 a Catanzaro, sì. Quindi, insomma, in programma c'è subito questa manifestazione convocata localmente, diciamo. No, sarà estesa a livello nazionale, però ci aspettiamo, diciamo, una partecipazione maggiore dalle realtà del sud che sono state già contattate. E niente, naturalmente più gente viene, meglio è, ma è importante soprattutto la risposta locale della regione, ma anche e soprattutto della città. Senti, diventa poi interessante anche andare a vedere come i media hanno affrontato questa vicenda. lo abbiamo detto, insomma, si è trattato di un attacco fascista mirato, perché in questo caso è anche facile intravederne il movente, a diciamo intimidire un percorso, una serie di percorsi attivi nella città. Ora, come è stata riportata invece dai media questa cosa? La solita colluttazione, regolamento di conti, scontro tra bande? Inizialmente i giornali appunto riportavano la cosa come una rissa di matrice politica, sminuendo il discorso, perché sì, è di matrice politica, però non è stata una rissa, è stata una cosa ben concordata di scendere e di accoltellare Ruben. Quindi i giornali hanno sminuito il discorso, però in seguito poi naturalmente i compagni hanno fatto chiarezza su quello che è successo, e alcune testate poi hanno cambiato un po' le carte in tavola. Ci affidiamo naturalmente di più alle radio, ai giornali, ai giornali sul web, indipendenti, che appunto danno voce a quello che realmente succede. Certo, e poi insomma, se si incassano anche dei leggeri cambiamenti di versione da parte dei media mainstream, non fa poi male, insomma, visto che poi molto spesso una valanga di fango invece si abbatte sui compagni quando vengono reputati, insomma, addirittura responsabili di aggressioni che subiscono, perché qui veramente siamo al parossismo più assoluto. Tu hai ricordato, insomma, che le indagini si sono subito rivolte a stanare una falce arrugginita trovata lì, insomma, nella sede della riscossa, e invece non si è fatto nulla per impedire che le aggressioni continuassero, perché poi insomma c'è stato anche un ulteriore così epilogo di questa storia, no? Sì, appunto, come dicevo prima, quando esci per strada devi un po' fare attenzione, e un compagno nei giorni dopo pochi giorni che era successo il fatto, un nostro compagno era andato a trovare Ruben all'ospedale. Quando è sceso ha trovato sempre loro che ha subito un'aggressione anche. Quindi erano proprio sotto l'ospedale? Sì. Cioè, è questa il clima che si respira lì. Quindi per questo è importante una risposta forte. È importante appunto per dimostrare che Catanzaro non è solo quello. Catanzaro sono anche i compagni del riscossa, che appunto lavorano durante l'anno delle iniziative, che vanno dalla scuola, come abbiamo detto prima, ai cittadini, al lavoro, si interessano di un sacco di cose e portano avanti una politica antagonista. Quindi per dimostrare alla gente comune, se si può dire così, che Catanzaro non è quello. Catanzaro c'è voglia di cambiare le cose, di costruire una cultura diversa, anche che non sia fatta solo di violenza e di repressione, nel momento in cui c'è chi si interessa di problemi sociali e di qualsiasi problema che può esserci in una città come Catanzaro. Benissimo, insomma, poi confrontarci con realtà del sud a noi fa sempre piacere, a me in particolare, insomma, dalle mie origini meridionali, anche perché si conoscono poi delle realtà antagoniste nuove che lavorano e che sono impegnate, proprio per questo insomma sono duramente represse. È previsto appunto questo appuntamento di conferenza stampa, no? Domani, sì, nel pomeriggio. Dove si terrà? Ancora non è stato stabilito, ma entro la serata si manderanno il comunicato con la conferenza stampa, e quindi magari verrà seguita anche dalla radio. Certo. Va bene, allora a posto così. Grazie, direi che lo spazio si può chiudere. Grazie della voce che ci avete dato. È stato un piacere. Ciao Alessia. Ciao.